provata, si intima un'altra mandata, ti invita alla prima portata, la cima portata, la rima baciata, da questa manciata ci resta l'intima vita provata, perché? Perché? Per me ci sei solo te, se mi ascolti bene mentre ti parlo e senti che insieme possiamo farlo, ma tenti di lasciarlo come viene, noi siamo colti, dobbiamo colmarlo bene, voi non molti regalare insieme, se io ricordi da chi ci tiene, perché per me ci sei solo te, se cerco le parole che voglio dare, posso esprimermi nel cantare, un varco tra le favole reali, passo dopo passo perdermi è normale, sparco su un'isola normale, la mente si appisola, la terra sembra uguale, per me, di perché, di perché, la mente si appisola, la terra sembra uguale, per me